Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Oggi inviterò il pubblico a dividersi in due categorie manichee. Siete alieni o esteti perbenisti? Sono due categorie di difficile interpretazione, perché soprattutto la seconda, nell'accezione di cui parleremo questa mattina, è totalmente nuova. È una nuova forma per definire il proprio senso estetico, la propria sensibilità, il proprio porsi esteriormente, ma anche nelle scelte profonde nei confronti del mondo. Da una parte c'è l'esteta perbenista. Se io dico la parola perbenista, subito a qualcuno verranno i brividi, perché diciamo, ah, perbenista, questo tuo falso perbenismo. Viene sempre associato al perbenismo il carattere di falso. In generazioni, chi ha la mia età più o meno è passato attraverso un'infinità di denigratori, è stato a sua volta, e lo è tuttora spesso, è denigratore del falso perbenismo. Ma tutte le volte noi diciamo falso perbenismo, in realtà accreditiamo il valore profondo alla parola perbenismo. Perbenismo è un valore se noi attacchiamo qualcuno che è un falso perbenista. Invece, nella possibilità di adeguarsi a un modello perbenista, probabilmente, perlomeno nella lettura di un personaggio che adesso presenterò, può esserci una sorta di occhio profetico su quello che sarà il modo di vedere e sentire nel futuro, dopo un momento in cui si è visto e rivisto tutto, di cui siamo vittime di un continuo eterno ritorno di modi, di maniere d'essere, di maniere di pensare, di celebrazioni epocali, i fantastici anni 70. I maledetti anni di piombo, i meravigliosi anni 80, gli anni dell'ottimismo, gli anni del mieloso, gli anni in cui prese le sue radici la scaturigine profonda, l'origine del terrificante fenomeno del berlusconismo oggi. Mi ricordo di recenti querele che ho avuto con ex amiche su questa virulenta esplosione di una sorta di processo a drive-in, perché drive-in rappresentava negli anni Ottanta quello che è il modello di turpe mercimonio del corpo femminile negli anni 2000 e via dicendo. Beh, tutto questo, colui che si pone nella logica dell'estetica perbenista non ha solamente bisogno di macerarsi in questa dialettica, perché per lui ha fermato, ha bloccato in un modello estetico ogni sua attesa e ogni sua espressione, e quindi guarda con un sorriso distaccato tutti gli altri che sono gli alieni, alla continua ricerca di ciò che possa renderli distintivi ma allo stesso momento li renda perfettamente allineati con la moda di un momento. 800240024, cercherò di farvi capire quello di cui parlo, ma preparatevi a telefonare e a dirmi se siete dalla parte degli alieni o degli esteti perbenisti. La pelliccia perbenista della zia. L'astrakhan era l'unica pelliccia che la signora Rundheim indossasse, perché era l'unica pelliccia perbenista. Nella bolla temporale in cui la signora viveva cristallizzata da molti decenni, non giungevano le contestazioni animaliste a difesa degli agnelli caracul. E l'etica che governava le pellicce non tendeva ad escluderle tutte, ma solo quelle che avrebbero potuto inficiare l'accettabilità sociale di chi le indossava. La vedova Tirlaghi non avrebbe mai portato certe pelli leopardate con cui oggi gli alieni più sprovveduti tendono a rivestire ambientazioni passatiste e bizzarre, riconducibili all'epoca di massimo splendore della defunta, ma non coincidenti con l'estetica perbenista. Tommaso Labranca, buongiorno. Buongiorno. Tommaso Labranca è l'elaboratore della teoria dell'estetica perbenista, che è stata concretizzata in un manuale, in un libro uscito proprio in questi giorni per l'editore Excelsior, Astrakhan, la zia e l'estetica perbenista. Noi abbiamo allucinato già la figura di questa zia che veste pelliccia d'Astrakhan, che è l'unica pelle non mignottesca ottenuta dallo sterminio di un piccolo agnellino nero afghano di cui mi hai appena detto, qualcosa del genere. Ecco, questa zia è la summa di tutte le zie che tutti abbiamo avuto, è una zia che realmente fa parte della tua biografia? Beh no, è una zia immaginaria, è una zia che raccoglie il meglio di tutte le zie e per di più spesso è una zia non zia, nel senso che è una di quelle donne anziane che non so come mai diventa amica di famiglia che tu chiami zia, almeno nel mio caso è stato così. Io ho ripensato a questa persona, ma torniamo veramente indietro agli anni 60 e ho invidiato il modo in cui questa persona viveva, soprattutto pensando a tutto ciò attraverso cui io sono passato, come dicevi tu, gli anni 70, gli anni di piombo, il recupero negli anni 80 e così via, e ho detto ma perché ho perso tutto questo tempo in una serie di teatrini quando ne bastava uno di teatro, il teatro perbenista, che poi se tu dici falso perbenismo, prima citavi, il perbenismo non è mai falso perché non ha un'altra qualcosa a cui opporsi, una verità a cui opporsi, è l'unica verità possibile, quindi il perbenismo è l'unico teatro che diventa realtà. Perché? Perché non cambia mai, resta sempre fedele a se stesso. Noi invece siamo stati rivoluzionari, poi siamo stati vittime del riflusso, siamo stati paninari, siamo stati qualunque cosa, ogni due anni cambiavamo. Allora, per definire bene queste due categorie su cui vorrei convogliare il pubblico, che riusciamo a far capire esattamente qual è la profezia sul modello estetico del falso perbenista, se definiamo anche l'alieno. Allora, l'alieno è l'opposto di tutto questo. Il perbenista estetico è colui che ha scelto un modo d'essere, un modo di vivere, un modo di rapportarsi con gli oggetti, di vestirsi, di considerare il mondo, il proprio prossimo, e poi vedremo tutte le varie declinazioni quotidiane dell'esteta perbenista. Invece l'alieno chi è? L'alieno è il contrario, è colui che pur nascendo da una famiglia perbenista, una famiglia diciamolo anche borghese, piccolo borghese magari. Alieno è contaminato dal perbenismo comunque, dall'estetica nasce perbenista. Dentro lo è, dentro si resta sempre. Ma ne prende subito le distanze? Assolutamente, soprattutto quando poi incontra i suoi pari e non può quindi far vedere che lui a casa, la mamma a casa c'ha la collana di perle e il quadro La natura morta fatta dallo zio. No, deve spacciare qualcosa. A casa avevamo, racconta, compravamo molta arte contemporanea. Naturalmente non è vero, perché questi abitano in un bilocale, non so, di latina e hanno appunto il quadretto. I quadri fatto si comprano al mercatino. Esatto, ecco, sì, oppure vengono regalati il giorno delle nozze. Quei belli acquarelli fatti dalle zie, se no ce ne sono tante possibilità di avere quadri a casa. E invece si spaccia, l'alieno è uno che spaccia continuamente e io punto molto sul design nel libro perché quello è veramente rivelatore e l'atteggiamento della zia verso il design è di totale disinteresse. Cioè la zia il design non interessa, interessa la qualità, interessano altre cose. L'alieno invece è quello che diventa vittima, soprattutto qua a Milano, di quello che è il fuori salone. Cioè tutti questi eventi che sembra che Milano si trasformi nella capitale di chissà cosa e poi sono semplicemente degli spazi di birra. Ecco, definiamo due ambienti, due habitat. L'ambiente dell'esteta perbenista e l'ambiente dell'alieno. L'alieno va in questi grandi spazi espositivi, come li chiamate qua a Milano, non so... Showroom. Ecco gli showroom, ecco sì. A Roma c'è una lieve differenza, il generone romano si riunisce in qualcosa di simile, ma con delle lievi accezioni. Troviamo lo showroom, ecco, va nello showroom in dei luoghi che sono dei non luoghi, perché sono uguali ovunque. Ma sai cos'è? Che a volte sono dei non luoghi, ma non così proprio non luoghi. Io ne ho visto uno ultimamente, durante questa edizione del Fuorisalone, ridicolo, che era una vecchia officina, trasformata in showroom, però lasciando all'interno ancora le pompe dell'aria, il ponte sulle valve. Atteggiamento tipicamente alieno. È un atteggiamento alieno perché a un certo punto tu nega il lavoro, perché è triste, perché dici vabbè l'officina ha chiuso, adesso cosa facciamo, che lavoro facciamo, non si sa, possa mica fare tutti i designer. Dall'altra parte è falso, come quando sempre succedeva, spesso più forse di più in qualche anno fa, aprivano dei bar in vecchie latterie oppure aprivano dei negozi di abbigliamento in vecchie latterie e lasciavano fuori l'insegna antica latteria, che era anche un po' così straniante. Beh, diciamo che il capolavoro di tutti questi sono le nuove tendenze, l'Eat Italy, il slow food, che ti ricostruiscono la tavernetta, la piccola osteria con le seggioline trattate ancora come se fossero antiche, ti fanno vedere il vecchio tagliere dove si affetta l'antico salame con il coltellino che aveva l'anziano Norcino, quando in realtà è tutta roba prodotta e costruita, comprata al supermercato e poi venduta a prezzi da tagliere Norcino, ma cioè, io in questo caso sono felice di essere perbenista. Fermiamoci un attimo, abbiamo Stefano da Napoli, vediamo il primo soggetto, se riusciamo a individuare l'appartenenza a qualcuna di queste categorie. Stefano. Buongiorno, pronto, ecco. Volevo sentire parlare di questo perbenista. C'era allora un mio compagno di classe, per esempio, che era un po' hippie, cioè, questa poi era fine tra gli anni 70 e 80, ma anche certi suoi amici. per esempio diceva, gli piaceva sempre, non è che era sporco o altro, però gli piaceva insomma vestire, come si dice, all'epoca un po' quei jeans un po' strusciti, a volte pure in estate. Lei giustamente, dal suo punto di vista, che aveva individuato di esteta perbenista, lo vedeva come un alieno. No, perché praticamente diceva, mi piaceva suonare per la strada assieme ai compagni, diceva. Vabbè, quella era l'epoca in cui l'alieno, sì, quello doveva fare l'hippie, poi avrà cambiato altre 60 volte. Oggi diceva, questa è borghese, perché altri miei compagni trovano vergognose. Ma lei invece, parli di lei, ho capito che lei considera alieni queste persone che sono così affannate nel seguire continuamente le mode. Il suo amico hippie oggi sarà con la sua pancetta, con il maglioncino girocollo nero messo sotto il vestito a fare il finto giovane vecchio. Ma lei esattamente, lei che... A me piace vestire un po'... A volte non mi riconosco certe persone perché a volte cambio look, perché a volte vestivo il jeans, la giubbetta. Ma allora anche lei è un alieno, scusi. No, a volte invece ho la giacca e le camicie, metto mai la cravatta, la giacca, le camicie colorate, insomma variare colore, però non deve fare la cozzaia, sempre in un certo modo, sempre in un certo gusto, perché poi quelle si figura meglio soprattutto sono le scarpe, le donne guardano soprattutto quello. Certo, figurami, gli occhi delle donne guardano le scarpe, dalla scarpa in su è indifferente ciò che c'è. Anche quello fa parte di questo stima, mantenere bene in buono stato certe cose. E poi sempre questo qui, per esempio questo mio compagno di scuola a volte andava pure in estate con gli zoccoli e se toglieva e diceva, sempre noi altri diceva, voi vergognate a stare scalzi. A me sinceramente un po' psicologicamente mi scocciava, però a volte la gente a volte si impressionava se vedeva certi tipi, per esempio, non proprio strani, ma sempre certi... Allora, fermiamoci Stefano, lei ci ha dato già sufficienti elementi per fare la prima diagnosi, che in realtà, secondo me, è un'autopsia. Tommaso. Beh, è fondamentale il fatto che chiamasse da Napoli, perché Napoli è una città altamente perbenista. Sembrerebbe magari il contrario, invece no, c'è un perbenismo di ferro a Napoli. Anche quelle espressioni che a noi sembrano magari più eccessive sono rigidamente regolate. Non parliamo poi di quello che succede negli antichi palazzi, i nobili o quella classe elevata napoletana, ma più vai giù in Italia, più si scende verso il sud, più aumenta il livello di perbenismo e meno risultano presenti gli alieni, anche perché scappano tutti al nord. Cioè tutta la parte di alieni giovani pensa che al nord si possa fare quello che si vuole. E quindi si travestono come gli altri. E certo, si travestono, poi quando tornano giù per le vacanze natalizie naturalmente ritornano in questo alveo perbenista. Perché io non ricordo, avessero vissuto in una città universitaria che era Perugia, quando arrivavano queste ragazze, senza fare discriminazioni di latitudine, pugliesi, che arrivavano vestite come la mamma le aveva vestite. Quindi erano gli anni 80, con la gonna lunga sotto il ginocchio, con il leggero spacchetto dietro, su tutte le nuanze del nocciola, del marrone, con delle belle camicette ricamate, con i capelli fatti come la mamma. Quando arrivavano a Perugia, dopo una settimana, si cambiavano completamente, si vestivano come i fighetti perugini che vivevano solamente per andare in Corso Vannucci con gli stivali del ciarro, con le cinture in una certa maniera, e quindi si mimetizzavano. Salvo, come dicevi te giustamente, quando tornavano a Pasqua per le feste comandate, o venivano su le mamme, le zie con le salamelle e con i boccioni dell'olio, i bottiglioni dell'olio, ecco, ritornavano immediatamente e ritornavano nella loro fantastica versione. Perché di noi siamo quello, estetica per noi siamo quello. Andiamo avanti, Antonio da Cosenza. Antonio? Sì, buongiorno. Eccolo, avanti. Lei cos'è, esteta perbenista o alieno? Io sono tra tutte e due. Ma nessuno ha coraggio di definirsi in una categoria. Ma in effetti io credo che quello che lei ha definito, gli alieni sono quelli che dovrebbero essere gli omologati dalla TV, il gregge, e il perbenista non è altro che quello che per far notare a forza la differenza si mette completamente da parte, esageratamente, e molte volte non c'è la capacità di diffusione delle arti. E abbiamo molti cretini colti nel mondo dei perbenisti, no? Che hanno molte nozioni, molte cose nel cervello, ma non c'è quel gran giudizio critico. Sì, ma fermiamoci all'aspetto estetico. L'estetica ha un suo valore, non mi interessa poi del contenuto. Sì. È il colpo d'occhio, è la visione generale del come ci si pone. L'estetica perbenista in realtà è un recupero di una condizione quasi di avanguardia nel pensiero di Labranca, perché non c'è più un passo passatista, dice faccio questo perché non posso andare oltre. E decido che questa è l'unica maniera, la maniera migliore cuore per non perdere tempo nel correre dietro le mode, nelle reinterpretazioni. Sì. L'atteggiamento che dice lei è un atteggiamento che assomiglia un po' all'atteggiamento dello snob, che è ben altra cosa. Gli zii e gli alieni. La zia spendeva molto per trascorrere 15 giorni in un albergo di lusso a Bordighera. Gli alieni spendono molto per patire caldo e fame in Salento. Lo zio amava i tornei di Scala 40. Gli alieni amano i tornei di Texas Hold'em. La zia conservava i suoi ricordi in un album fotografico. Gli alieni hanno un account su Flickr. Lo zio, alle prime défaillance dovute all'età, si concedeva uno zabaglione. Gli alieni comprano il Viagra su internet a 35 anni. La zia non disdegnava comprare su Postal Market. Gli alieni comprano segretamente su Media Shopping. La zia sul balcone d'estate accendeva lo zampirone. Gli alieni sulla terrazza d'estate accendono l'incenso. 800240024, se non vi fosse chiaro, abbiamo stabilito per categorie, per comportamenti, per modi d'essere, le differenze sostanziali tra l'esteta perbenista e l'alieno. Tommaso Labranca. Beh, una cosa che non mi trova d'accordo rispetto a quello che ha detto il signore di Cosenza è il gregge formato dalla televisione. L'alieno non guarda la TV, l'alieno lavora per la televisione, vorrebbe lavorare in televisione, fa l'autore oppure fa le fotocopie, dice di fare l'autore, però non è quello che subisce il, poi non so poi chi subisca questa influenza televisiva, non l'ho ancora capito, questo gregge chi può essere. Sta attento, rischi la fucilazione. Come, non sai che la televisione ha cambiato radicalmente la nostra estetica, il modo di pensare, il modo d'essere negli ultimi 20 anni? Sì, ma sai chi è che dice queste vanno cose? Vanno in giro le veline, le donne nude. Lo dicono quelli che sono stati influenzati dalla televisione, perché chi ha un approccio critico o comunque anche disinteressato verso la TV non se ne sente assolutamente influenzato e non parla di questo pericolo terrificante. Ci sono stati libri molto più pericolosi nella storia dell'umanità, molto più pericolosi della televisione, il Mein Kampf, per dirne una, capisci? E quindi non trovo assolutamente giusto dire che gli alieni siano quelli che emulano la televisione. Probabilmente, e torniamo ancora a parlare di latitudini, probabilmente arriverà forse questa differenza tra alieno ed esteta perbenista in altre zone del paese più avanti, non lo so, forse sì, forse no. Noi cercheremo di fare uno sforzo ulteriore, vedo che ho molte telefonate, ma adesso devo lasciare la linea alle informazioni della borsa, per definire, se, questo è il compitino che do alla Branca in questo minuto di pausa in cui andrà la borsa, qualche personaggio riconoscibile, identificabile nell'una e nell'altra categoria. Esiste un noto personaggio che è esteta perbenista o l'estetica perbenista rifugge comunque la notorietà? A tra un istante, dopo le informazioni della borsa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Lo snob. Il vero snob non fa rifiuti. Un vero snob non passa mai in discarica a smaltire in un giorno d'agosto tutto quanto ha accumulato in un anno di acquisti compulsivi, una massa di prodotti che non sono mai serviti. Un vero snob non ricorda nemmeno quando ha comprato una camicia, un mobile, un libro. Forse mai, forse ci è nato già dentro ed è felice quando ritrova nel guardaroba la solita camicia dal taglio impeccabile, ripiegata dalla cameriera e con il colletto un po' più liso rispetto al mese prima. Sorride quando scopre un nuovo accenno di tarlatura in un trum ereditato. Lo snob non fa rifiuti, ma gode nel diventare rifiuto lui stesso insieme ai suoi beni. 800240024, abbiamo invitato questa mattina gli ascoltatori a definirsi a seconda delle due categorie che sono state individuate nell'ultimo libro di Tommaso Labranca, Astrakhan, la zia e l'estetica perbenista, edito da Excelsior. Un libro in cui, allucinando, costruendo una sorta di morphing, di insieme di tutte le zie che ognuno ha visto, conosciuto, attraversato, reali, consanguineo, improprio, soltanto attribuite, un modello di imperitura tenuta estetica. Che è una zia che non si pone più il problema delle mode, non si pone più il problema di dover cambiare, nemmeno di dover reinterpretare, rileggere, è lì ferma, ha trovato un punto fermo nella nella fase consapevole della nostra civilizzazione. Gli alieni sono tutti gli altri, sono quelli che devono comunque seguire la moda, quelli che devono sentire l'aria, quello che devono essere in linea con i tempi e devono soprattutto reinterpretare e riportare sempre in una luce nuova quelle che erano le mode del passato. Perché Tommaso Labranca, uno dei punti chiave, che l'alieno non è che cerca sempre il nuovo, ma quello che comunque deve dare una rilettura, una ricontestualizzazione all'antico. Ecco, se metto un orologio come il mio che sembri antico e vintage, poi comprato alla bancarella degli indiani sotto la radio, ha un cellulare d'antan, ma semplicemente che lo va a cercare alla bancarella per far vedere che lui è figo, che non ha l'iPhone, ma in realtà nel cuore pulsa un iPhone. Beh, diciamo che al momento in cui l'iPhone era uscito da 2 minuti, l'alieno era in fila davanti all'Apple Store per comprarlo prima degli altri. Quando ha visto che anche i bambini cinesi sull'autobus ce l'hanno, ha detto: ah no, allora basta. È andato, ha recuperato il vecchio, se ti ricordi quei telefononi sembravano così moderni negli anni 90, lo scatolotto della Motorola, esatto, dicendo che invece che si apriva l'antennina con i denti, bravo, infatti l'antennina tutta mangiucchiata con lo sportellino. Per cui l'alieno è purtroppo è schizofrenico, non sa esattamente in che direzione andare, mentre la zia, cioè l'esteta perbenista, sa esattamente dove andare, dove stare, da dove viene anche. Ecco, diamo la differenza rispetto a questo esempio che abbiamo fatto del continuo viraggio estetico del proprio cellulare. L'iPhone bisogna averlo nel momento in cui tutti ce l'hanno e si fa la fila come per l'iPad 2, che tutti sembravano impossibile non averlo, poi in realtà basta avere la copertina diversa e si sembra fighi lo stesso. E la zia, che in realtà ha sempre un telefono, ma è sempre quello perché non l'ha mai cambiato. Non ne ha bisogno, non ha bisogno perché non deve esibire nulla. Ecco, il perbenismo, l'estetica perbenista non espone, non esibisce, non fa spettacolo di tutto ciò che possiede. Come anche lo snob, di cui abbiamo sentito adesso una breve descrizione. La zia non è snob, però si avvicina, è imparentata. L'alieno invece fa uno spettacolo continuo, cioè l'alieno perché arriva in città? Perché occupa le zone più visibili della città? Perché sono le scene, sono i teatri migliori, per cui se si fa vedere la sera dopo il lavoro di autore televisivo, come ricordavi tu, non può andare così tristemente a parlare quello che ha fatto, deve essere sempre 2 righe più in su degli altri, deve sempre avere qualcosa da urlare. 2 righe in tutti i sensi. 2 righe in tutti i sensi, anche in quello, esatto. Mentre la zia quelle cose non le fa. Cioè, ecco, al massimo qual è l'uscita dalla regola per la zia o per lo zio? Lo zio, abbiamo detto, prende lo zabaione, mentre l'alieno si compra il Viagra Tarocco poi in rete, capito? Se lo prende anche se ha 20 anni, perché deve essere sempre in forma e in tensione. Ecco, quali sono le lecite uscite dalla regola dell'esteta perbenista? Dunque, devi pensare che la zia, come l'ho concepita io, quindi l'estetica perbenista, nasce dagli anni 50 in poi, quindi io ho fatto proprio dato un'età, nata nel 34 la zia, quindi negli anni 70 era nel fiore degli anni, come si dice, quindi accettava, anche se le vedeva di nascosto, tutte quelle produzioni svedesi un po' osè che c'erano ai tempi, senza scandalizzarsi, perché la zia non è sessuofoba. No, no, assolutamente. Assolutamente, anzi accetta il sesso come se fosse una componente della propria esistenza. Quindi l'alcol, che oggi pare sia il nemico numero uno, era accettato. La zia e lo zio anche avevano questa collezione di bottiglie, di nocini, di whisky, anche di superalcolici. Non a caso uno degli idoli del perbenismo è James Bond, che beve continuamente. Ti dico una cosa lievemente lubrica, scurrile, che fa parte in parte lateralmente della mia biografia. Morì una volta, in parenti collaterali, una zia esteta perbenista, una signora che si era fatta una bella vita, aveva vissuto zitella, aveva viaggiato tanto, e mi capitò assieme a un'amica di andare per la prima volta a entrare nella casa abbandonata, questa signora che ha avuto una lunga degenza per quei mali brutti che prende, capito? Quindi la casa è rimasta incontaminata, diciamo, per qualche mese, e cominciammo a scartabellare in tutti questi oggetti. E rimasi commosso quando trovai in un cassetto, assieme ai santini, assieme alle bottigliette di profumo, alle bottiglie della vecchia Romagna etichetta nera, un vecchio antico vetusto ma funzionale vibratore di quelli giallini di plastica anni 50. E capii veramente il segno di modernità, e in questo momento capii, attribuisco la categoria dell'estetica perbenista che dici te a quella vecchia però zia. Dov'era? era chiuso in un cassetto. Sì, un cassetto naturalmente, riposto in mezzo a altri mille oggetti. Io ho visto proprio recentemente, ho rivisto un c'erano le pile che era uscito l'acido, quindi era distrutto praticamente. Infatti ho rivisto un episodio di Sex and the City in cui si parla appunto di vibratori a forma di coniglio e sono esibiti, messi lì in negozio, nascostissimi. E quindi se fosse passati altri due mesi l'acido delle pile avrebbe distrutto, sì, c'era un meccanismo di autodissolvimento. Non l'avete sepolta con il vibratore? No, era già stata poverina sepolta da tempo, quello accadde molto dopo. Però mi commosse perché era qualcosa che apparteneva, perlomeno in modelli molto in pregiudizi, a un'altra generazione rispetto alla vecchia zia. Però lei nel suo tempo aveva capito qual era lo strumento di curiosità che poteva cogliere. L'aveva preso e l'aveva congelato lì. Era, vedi, era lo stesso messaggio che davano le femministe negli anni 70 in piazza urlando, e la zia invece lo praticava in silenzio e con molto stile in casa sua. Sentiamo qualche ascoltatore. Sandra, buongiorno, da Palermo. Salve, io devo dire che personalmente mi definivo, intanto ho 38 anni, quindi consideriamo i primi 15-20 anni della mia vita, mi definivo perbenista, e con questo intendo tutto ciò che l'accezione del termine significa, quindi religiosità, magari un po' bigotta. Ma quello è essere perbene, non intanto, perbenista, una persona perbene vuole essere lei. Sì, ma anche per bene ci si è intenzionato, e quindi ad un certo punto no, per bene implica altri significati, poi c'è distinzione tra bene e male, no, è un po' diverso. Vabbè, una ragazza per bene con aspirazione perbenista. Sì, esatto. E poi cosa è successo? Poi ho conosciuto il mio lui e un po' mi identificavo tantissimo. E ha smesso di essere una ragazza per bene? Lei, signor Nicoletti, disse riguardo delle ragazze pugliesi che incontrò a Perugia, nella parte di Perugia in cui ci sono le facoltà da frequentare, sì. Quindi l'università, e quindi si vedeva, diciamo, a livello estetico, queste, lei diceva che le ragazze pugliesi... Era una mutazione antropologica, radicale, però diciamo transeunte, come rientravano nell'area geografica di origine e rientravano in quello che erano prima. Sì, esatto, però ecco, è importante, secondo me, il discorso del perbenismo non va etichettato in quanto tale una persona, in quanto tale un soggetto, perché ci sono delle tendenze. Ma lei oggi come si sente? Andiamo al punto, lei ancora si sentirebbe di essere definita nell'ambito dell'estetica perbenista o lo sente come un insulto? Io come persona, diciamo, io personalmente sono una persona molto aperta, in grado di accettare tutto, definendo me stessa perbenista, adesso mi definisco quasi, non dico l'opposto, ma diciamo molto diversa. Noi parlavamo poc'anzi delle studentesse pugliesi, e io personalmente ero vestita con abiti tipo monacheschi, poi conobbi mio marito, diventai l'opposto, mi voglio. Cioè l'opposto che significa? Questo significa che... così. Adesso che diciamo è passato l'affocamento carnale della conoscenza con suo marito, cosa è lei adesso? Come si definisce? Un'aliena alla ricerca del cambiamento continuo, del vento che tira in poppa, o ha ripreso il suo sano status di esteta perbenista? Ecco, l'esteta perbene c'è sempre, il problema è che non va a un soggetto ad etichettarsi o ad essere etichettato perbenista o alieno, perché... Ho capito, signora, la interrompo, la devo segare. È macerata ancora dal dubbio, è sull'orlo di un baratro. Tommaso Labranca. Guarda, c'è un... prima mi avevi detto... C'è una parola di speranza per questa signora. Sì, la psicanalisi fa sempre miracoli. Sì. Comunque, tu prima mi chiedevi... Anche l'adulterio in questo caso forse aiuterebbe. Sì, anche molto, con un amante per bene. C'è un... tu mi avevi chiesto un esempio prima, sì. Ti ricordi? Sì. Un esempio. Me ne è venuto di un VIP di un esteta per bene. E io ho detto, sì, potrebbe essere... già non mi ricordo più, Milly Carlucci mi diceva che era perfetta. Perché è perfetta, veramente la signora per bene con le cornici d'argento in casa. Me ne è venuto in mente un altro, molto molto più legato all'attualità, ed è Kate Middleton. Kate Middleton è l'esempio dell'estetica perbenista, perché lei... Vincente, certo, perché lei deve portare il perbenismo in una famiglia reale allo sbando, mentre 30 anni fa Diana Spencer era l'aliena. Era colei che, entrata nel meccanismo perbenista della famiglia britannica inglese, l'aveva sgretolato. Quindi vedi che a un certo punto... Ma meravigliosa la contrapposizione che dimostra che nella dualità della generazione due sorelle in realtà lei è quella giusta. E pensa, lei rispetto al culo di Pippa, che è la cosa che ha più esaltato, che è la sorella di cui si è notato tantissimo questo fantomatico di dietro inquadrato in tutte le maniere. Infatti di faccia non la riconoscerebbe nessuno, però durante la diretta abbiamo notato questa caratteristica. Ma anche lei sarà perbenista poi alla fine, perché hanno capito che in questo momento, cioè, è proprio un'onda, finita l'onda aliena, l'onda distruttrice, l'onda di Lady Diana, adesso dovrebbe essere l'onda della ricostruzione, in questo caso magari anche falsa e di così anche un certo livello di utilità per la si signora. Può vedere il basso lignaggio della signorina principessa è importante, perché se porta al valore dell'estetica perbenista è come se riportasse sangue fresco, quelle antiche dinastie che avevano bisogno poi di ricontaminarsi con la plebe perché alla fine si accoppiavano tutti tra di loro, a forza di aver impugnato l'alienazione come valore anche della stirpe reale, serve un'esteta perbenista. Infatti la definiscono le commentatrici snob in televisione una sciampista, una povera ragazza, ma in realtà è fondamentale. Ecco, ma tutte queste commentatrici, tutta questa massa di giornaliste che hanno dibattuto, parlato, sono tutte perbeniste nascoste, perché cercano di fare le aliene magari anche a 60, 75, 82 anni, cercano di fare ancora le ragazzine, perché sempre la principessa low cost, perché compra vestiti normali. E invece no, invece di esaltare questa capacità di parlare a un mondo che sta ritornando al perbenismo, loro devono sempre criticare, perché è uno degli atteggiamenti alieni. Ci fermiamo un istante per dare la linea velocemente alle informazioni del traffico. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Molto velocemente, abbiamo pochissimi minuti, vediamo se riesco a fare una piccola carrellata di alieni o esteti perbenisti, ma vedo soprattutto alieni. Riccardo da Catania, velocemente, cos'è lei, alieno o esteta perbenista? Sì, buongiorno. Ho 41 anni e mi definisco un alieno, ma solo per sentirmi più giovane. Ho una sana famiglia, una figlia di 19 anni. E cosa fa? Cosa fa i suoi capelli? Ma ce li ho sempre col gel, la spazzola, vesto sempre in un modo molto estroso, jeans strappati, dei vestiti molto colorati. Cioè, quindi lei è rimasto ancora, diciamo, all'epoca del gel, è felice anni 80. Vede che essendo alieni non si fa stare meglio. È lei convinto di essere giovane, di essere moderno, ma in realtà ha ancora un'estetica datata di almeno 20 anni. Franco, provincia di Vicenza. Sì, io sarei uno di quelli che si definisce trappola, nel senso che la mattina basta che i vestiti siano puliti e io li indosso, non ho un gusto estetico, quindi non so. No, lei è un esteta perbenista favoloso, vero Tommaso? Sì, è favoloso, però bisogna anche uscire un attimo dall'ambito vestitivo, cioè il perbenismo, l'estetica perbenista tocca anche le nostre case. Lei in casa che quadri ha, per esempio? Guardi, le aiuterò perché non ho quadri. Ecco, questa è una scelta aliena, anch'io non, essendo un alieno anch'io alla fine non ho quadri. Invece il perbenista ha i quadri che compra su telemarket. Andiamo avanti, Marco, provincia di Teramo. Sì, buongiorno, volevo darvi uno spunto. Alieno istituzionalizzato, voi direte perché? Istituzionalizzato dalla società. E non potete dirmi che non tutti noi non abbiamo una card di un supermercato, non abbiamo una tessera con tutti i nostri dati. Guardi, le dico una cosa, stavo parlando proprio di queste cose qualche giorno fa, e di vari punti delle tessere che stanno scadendo in questo periodo, e io facendo una battuta stupida ho detto a questo mio amico, guarda, ormai mi restano solo i punti di sutura, e lui mi ha detto, sutura, che supermercato è? Quindi non riesce neanche più a entrare nella mentalità della battuta e sa cosa sia la sutura, per cui ha ragione, sì, ma l'alieno è sempre istituzionalizzato, parola difficilissima, perché non è spontaneo, è costruito e creato dall'esterno. Però già la consapevolezza, e siamo proprio vicini alla chiusura, devo chiudere, la consapevolezza di essere istituzionalizzato è già una prima ancora di salvezza per l'alieno. L'alieno consapevole, secondo te Tommaso, proprio in un secondo, ha possibilità di entrare nel fantastico e leggiadro mondo dell'estetica perbenista? Dopo una certa età sì, dopo una certa età si dice basta, si rinuncia al gel, anche perché per esempio nel mio caso devo rinunciarci necessariamente, e si dice vabbè, torniamo a fare quello che facevano le nostre zie, che forse vivevano meglio e più a lungo. Questa è la massima di saggezza di Tommaso Labranca, cultore e capostipite della nuova estetica perbenista. Ci sentiamo domani. Coserblast, affidabilità per la vita. Vi ha presentato Melog 2.0. Alors tous deux, on est reparti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.